se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Possono rispettare le indicazioni del Presidente della Repubblica di avere una legge con il più ampio consenso possibile da approvare in Parlamento per poi andare alle elezioni. La nostra partecipazione alla formazione di una legge elettorale serve ad arginare l'inciucio tra Renzi e Berlusconi. La legge elettorale è l'ultima delle mie preoccupazioni. Si mettono d'accordo, tanto vedo che Renzi e Berlusconi si vanno d'amore d'accordo. Bene, portino l'Italia a votare. Quando il mio amico Salvini ha votato con Renzi e con Verdini, nessuno di noi ha gridato all'inciuccio, ma semplicemente ha fatto una scelta e Salvini ha votato con la sua Lega il cosiddetto Verdinellum, cioè il modello proposto da Verdini. Noi non abbiamo gridato all'inciuccio. Non capisco perché il mio amico Salvini, quando un altro partito legittimamente sceglie un altro modello, grida all'inciuccio. Ragazzi, c'è da spararsi a leggere i giornali in questi giorni. Non si rendono conto del distacco che hanno dal paese, ma proprio non se ne rendono conto minimamente. Sono pagine e pagine anche oggi di sistemi elettorali tedeschi, che poi in Italia non si voterebbe con il tedesco, ma con un tedesco riadattato che è poi un italiano che nessuno ha ancora visto. Non ho capito niente. Caro Presidente De Luca, siamo in due. Siamo in due. A volte mi viene voglia di prendermi la residenza in Svizzera, a Lugano. Dove... c'è un sistema elettorale in cui si vota e vabbè. Viaggio premio in Iran. Perché no? Dai, anche in Iran. Anche lì hanno votato da poco, eh. Ragazzi. Oh, l'ultima è questa, peraltro. Adesso, dopo che Berlusconi sta resuscitando politicamente parlando, lo ha detto anche Enrico Letta oggi in un'intervista del Corriere, sta tornando come Stallone in Rocky 15. Berlusconi stesso, che è quello che ha lanciato tutto 10 giorni fa dicendo facciamo un bel sistema tedesco, sbarramento al 5%. Secondo il Corriere della Sera, Renzi ha detto giusto, facciamolo anche noi. Il Movimento 5 Stelle ha detto giusto, facciamolo anche noi. Tutti d'accordo, dai. Renzi incontra anche Alfano e gli dice basta Alfano, hai rotto, sbarramento al 5%, rimani fuori, non importa, io ormai ho l'accordo con Berlusconi e col Movimento 5 Stelle, tanto che Alfano è uscito da quella riunione dicendo Renzi è un serial killer, ha detto ai suoi. Dopo tutto questo pare che Berlusconi abbia deciso lo sbarramento al 5% non mi piace più, lo vorrei al 3%. Al 3%, mi conviene di più al 3%, e quindi chiederà che venga abbassato al 3%. Così almeno giura il Corriere della Sera. Berlusconi non è più convinto. Il 5 o il 3%? Vediamo un po'. Bah, vi farò sapere. Signori, a Madrid ci sono 16 gradi, ci scrive Enrico. A Madrid, 16 gradi a Madrid, clima ideale, clima per la serenità, per la tranquillità, ma anche per la determinazione, la forza, l'impegno e la corsa. No, così, vabbè, 16 gradi. Ci sono 18 gradi e 70% di umidità a Paratico, meglio di ieri, Roberto, grazie. Giovanni da Como, vicino a Lugano, 23 gradi, che caldo. 14 gradi a Manchester, ci fa sapere Stefano, in questo momento. A Sovere, Bergamo, 22 gradi, Diego, 22 gradi, mentre a Zurigo 17 gradi. Salutiamo anche Antonello, tangenziale est di Milano, 22 gradi. E Massimo a Saronno, 19 gradi. A Vizzolo Predavissi, 19 gradi. Un deficiente totale. Ah, Alessandro Milan. Saluto con grande affetto il collega storpiatore di cognomi Sammy Varin, anzi io lo chiamerò da oggi Sammy Varin, Varin alla francese, Sammy Varin. Salutiamo Sammy Varin di Radio Padania. E salutiamo Aurora Lussana, buongiorno! Buongiorno, come Milan, si sta lì giù? Un caro saluto a te, un caro saluto ai tanti amici di Radio 24. Eccoli lì. Stai ascoltando qualcosa stamattina, nostra benedetta? Le piace la Papu Dance. La Papu Dance? Papu Gomez, quello dell'Atalanta. Ah, ha fatto il baila come il Papu. Balla come il Papu. Lo sai che vi abbiamo fregato. Che si è. No, noi del Milan. Ma dove è andato? È vero. Non dovete ancora mangiare tanto di quella polenta per fare i numeri dell'Atalanta di quest'anno voi. Senti qua la Papu Dance. È questa? Bella. Balla col Papu? Bella col Papu, cosa fa? Mannaggia. Ormai qui in Padania c'è un clima tropicale, sì. mi metto a sentire. Senti, balla col Papu, senti. Vabbè, dai, accogliamo con un clima da Champions League il vincitore del triplete di quest'anno, lo juventino Federico Novella, conduttore del TG4, grandissimo. Buongiorno, che emozioni, buongiorno. Che emozioni. La tua buffata galattica spaziale per il momento sta funzionando, quindi prosegui pure, veramente, guarda. Un personaggetto che per ora sta facendo la nostra impresa sta facendo. Bene, bravo. Federico Novella e Aurora Lussana, oggi tanta roba. Signori, parte subito un Aurora sindaco, non si è candidata, è vergognosa. Sindaco di Cantù, doveva candidarsi sindaco a Cantù, ma non l'ha fatto. No, ma perché qua in Lega abbiamo deciso di candidare Ledgardo Arosio, che è bravo. Ledgardo Arosio, sì, Novella, l'hai mai intervistato? Potresti... No, è un po' un sogno, il sogno di una vita, prima o poi capiterà. Ricordati, non è che si chiama Ledgardo, si chiama Edgardo, però no, insomma, vabbè, basta. No, con vabbè, l'L apostrofo, ecco. Ah, c'è l'apostrofo, sì. Sì, sai che i lombardi, Ledgardo Arosio, sì. Ma come mai non te la sei sentita di bere l'amaro calice? Capisco che sia stato il suo esatto, modo, ma perché un po' difficile. Temevi il sistema elettorale delle amministrative, cara? No, vabbè, ma qui bisogna fare resistenza, sai che qui mi fanno sulla moschea Cantù, è cominciato il Ramadan. Ho capito, il Ramadan. Vince la Lega, qui il centrodestra è finita, ragazzi. Devo fare come il De Luca, andare a Lugano. Il problema è che... Anche vicino, tra l'altro, da lì. Sì, esatto. Ma il problema è che in Svizzera la sera chiudono anche i varchi. Cioè, no, nel senso, non è che vai là a Lugano a prendere la residenza. Sposi uno svizzero e io ho sposato un cantorino, quindi ormai è fatta, non posso più sposare uno svizzero. Beh, oddio. O se no vai là a lavorare, ma non è che ti prendono subito così a lavorare. Potresti fare in seconde nozze. A Lugano i terroni siete voi. Sì, esatto. Capito? A Lugano siete proprio trattati come la feccia della società, dei veri... Sì, guarda, sposa una roba, il Canton Ticino va avanti perché ci sono 60.000 sì, voglio dire a quelli del Canton Ticino. Quel 22 ottobre tanto qua faccia l'autonomia a Milan e altro che Lugano. Oh mamma mia, ecco, è vero, Si vota. La vera data per Aurora Lussana, caro Federico. Intanto apriamo il Parlamento. È il 22 ottobre. Lombardia e Veneto votano per l'autonomia. Ma forza, una roba ragazzi, veramente. Se uno esce per prendere un caffè e gli sale sopra così. Cioè, è come vincere a Risico e poi dire che hai conquistato la Cina. È un po' la stessa cosa. È un po' la stessa cosa. Sono padrone della Cina perché ho vinto a Risico. Allora. Sì, senti, forse per te la Lombardia e il Veneto sono la scanciacca. Per me invece sono la mezzaluna fertile. No, va bene, ma sarà bello il 22 ottobre vedere, Federico. Tu andrai a votare. Senza contare che se questo referendum passa, succederà. Esattamente nulla, perché è un referendum consultivo, non succede niente. Tranquilli, ecco. amici della Puglia, potrete venire in Lombardia e in Veneto e sarete sempre in Italia senza passaporto. Lasciate a casa il passaporto. Guarda che ieri, quando il Maroni ha indetto il referendum, il 29 maggio, data della battaglia di Legnano, ma ricordati anche la data in cui cosa accadde. Il 29 maggio. Porca miseria. Del 1453. Lepanto, no, cos'è? Non lo so. Ci siamo. Tre mesi, 8.000 uomini in armi, bizantini, veneziani, genovesi, hanno resistito a 150.000 turchi. Dove? No, ragazzi, guarda. Ma dai, Costantinopoli. Già. È caduto sulla punta della lingua. È caduto un mondo lì e dobbiamo stare attenti. Hai capito? Allora, sono forze politiche che guardano al futuro, no? Mille. Qui 600 anni così, no? Sì. No, allora dai, devo chiedere questa cosa molto seria. Caro Federico Novella, lo chiederò a tutti in questi giorni. Tu perché? Allora, intanto a dire, dopo le conte delle settimane decisive, vedi che quando si vogliono mettere a lavorare, fare la legge elettorale perché conviene ai più, se vogliono in 5 giorni, poi non la faranno magari. Ma in 5 giorni. No, uno va a dormire che non si vota, si sveglia il giorno dopo se c'è già la data del voto. Ma tu hai capito che è successo in questi 5 giorni? Ma guarda, io la domanda che si fanno tutti è questa, ma perché bisogna votare? Nel senso, cioè, perché bisogna fare una campagna elettorale sotto l'ombrellone da abbronzati con un sistema elettorale che ancora non sappiamo bene qual è, una corsa incredibile che farà in modo che le borse ci possano bastonare pesantemente, perché ieri è successo questo, e soprattutto non abbiamo la certezza che ci sarà comunque un governo a fine settembre. Certo, lo deciderà il Parlamento, si deciderà dopo il voto il governo, in base alle maggioranze variabili, in base... Ma c'è il rischio che non ci sia la maggioranza. Certo, con il rischio che non ci sia, cioè poi magari, non so, la Lega... si mette col 5 Stelle e così governa, e magari sarà così, ma magari no, non lo sappiamo. Non sappiamo neanche chi farà la manovra economica, non è una cosa che non ci riguarda la manovra economica, perché se non ci sarà un governo che fa la manovra, sarà una bruttissima cosa, perché dovremo pagare 17 miliardi di IVA, e quei miliardi da qualche parte dovranno trovarli. Si scatta, infatti oggi Repubblica racconta che Gentiloni sta pensando a un decreto per fare... scattare in là di 3 mesi le clausole di salvaguardia, che se no a gennaio fanno aumentare l'IVA. Ma insomma, questioni molto tecniche, ma che impatteranno sul portafoglio degli italiani. Ma cara Aurora, secondo te i politici si rendono conto di questo? È tutta una gara, cosa mi conviene? Sì, no, vabbè, Renzi vuole fare l'ennesimo referendum su se stesso, Meo Grillo, per vedere chi è il primo partito d'Italia. Beh, però Berlusconi gli dà una bella spalla, è lui che ha lanciato questa idea. Si somiglia, si piglia, dai, un po' i due, sai che insomma, vanno d'accordo. Renzusconi. Siamo tutti, vabbè, dai. Però il problema è che si fa una campagna elettorale d'estate, che io patisco, cioè noi qua in Padania patiamo un po' il caldo, non è? Siete un po' bolsi di polenta, no? sotto l'ombrellone. È uno spettacolo, cioè vedere i candidati mentre tu sei a sorseggiare un mojito, uno spritz sotto l'ombrellone, caro Federico, e vederli loro sudati, che, no? In giacca e cravatta, che fanno. Li vedremo lavorare d'estate, è una cosa che non è mai successa. No, la Lega lavora anche d'inverno, perché ci sono le feste. Non so gli altri partiti, ma quelli che fanno politica nella Lega d'estate c'hanno tutte le feste sul territorio. Questo è vero. Vanno in giro per costine. Io so qualcosa, che il marito infatti è sempre in giro a feste e io sono a casa con la bambina. Cioè faremo la campagna elettorale nelle sagre di paese, sostanzialmente nelle feste dell'unità, così, no? Davanti alla Talamella faremo campagna elettorale. A Curno, sì, recupereranno i voti, a Sovere, recuperano i voti, a Seriate. Comunque le cose importanti sono l'11 giugno che si vota Cantù e il 22 ottobre che si vota nel Lombardo-Veneto, le elezioni nazionali. Comunque, insomma, si vota? Cioè io non so neanche questa cosa, Federico, sei sicuro? Perché allora tutti contro il voto, le borse giù, le istituzioni giù, l'Europa giù, Confindustria giù. Diciamo che nel momento in cui Renzi si è messo d'accordo addirittura con Grillo, perché tutti si aspettavano un patto prima con Berlusconi, invece è clamoroso, Grillo per la prima volta esce dalla sua tana e si mette d'accordo con Renzi. Teoricamente già questo basterebbe per staccare la spina a Gentiloni e per fare una legge elettorale che ci porta a votare a fine settembre. Però la domanda resta: ma perché questa corsa? Perché questa corsa? Secondo me non vorrei che questa corsa fosse per il fatto che i nostri partiti sanno già che ci sarà una manovra economica a lacrime e sangue, e se non si vota vince Grillo. Loro dicono: se non si vota vince Grillo, andiamo al voto prima, andiamo al voto il prima possibile, così una volta che abbiamo votato facciamo la grande coalizione e poi si vedrà. Però è una manovra rischiosissima questa, per i motivi che ci siamo detti. Ma in tutto questo, Salvini con Berlusconi, come l'ha presa questa cosa di Berlusconi? Perché pare Salvini infuriatissimo. Allora, la Lega da tempo dice: noi va bene, andrà a votare con qualsiasi legge, quindi voglio dire, basta tornare al voto. Insomma, è dal novembre 2011, che la Lega dice quella roba qui, che servono non lo so, sai che non so quali sono, magari Novella che gira a Bologna di Salvini sai più tu, tra l'altro mi hanno appena mandato di Salvini la mitica foto a Palermo in cui mangia il pane cameus, il pane con la milza, molto padano come cibo, cara Aurora. Dopo il traffico ci dici cosa hai provato tu, che stavi con il come si chiama quello per girare la polenta, che il tarello della polenta, quando ogni tanto lo dai a qualche albanese che tenta di entrare in casa, pam, sei lì pronta col tarello. Ci dici cosa hai provato di fronte a questa foto di Salvini col pane con la milza a Palermo tra poco. Ciao Milan, intanto che aspettiamo che danno un rigore alla Juve, siamo già al 97esimo, niente, manda il traffico, dai, tanto c'è ancora un po' da giocare, dai, traffico. Aspetta! Rigore! Traffico! Manco per l'economia c'hanno competenze tecniche, Milan. Però decidono lo stesso, hai capito? Non è che sono economisti. Ma Milan, che cazzo ha quello jihadista, leghista là, che è cominciato il Ramadan? È cominciato il Ramadan, saranno cazzi nostri, no? Ma che cazzo ha quello jihadista, leghista là, che la finisce? Ma che la finisce? Oh Maria, non sono arrabbiato, sono anacleto, sono in diretta dal Viale Verdi di Montecatini, Terme. c'è De Curi, bimbo mio, che ti buttano a terra. Incredibile, ma vero. Ciao. Noi vorremmo che fosse inserito anche la nostra, nella nostra Costituzione, l'animale come essere senziente, cioè come un essere che soffre il dolore, che ha delle passioni, che ha delle emozioni. Niente, ormai Federico, lo dico io per te, ormai è andato, ormai è andato. Ma c'è una strategia, ci sarà una strategia. Ah, certo, ma certo. Oh, ti è piaciuto quello del lancio del traffico? Bellissimo. Ma quello è geniale, fammi un po' risentire. Ciao Milan, intanto che aspettiamo che danno un rigore alla Juve, siamo già al 97esimo, niente, manda il traffico, dai, tanto c'è ancora un po' da giocare, dai, traffico, traffico. Aspetta! Rigore! Traffico! Ma un genio! Io lo candiderei questo. Un genio assoluto. Allora, Salvini che mangia il pane con la Meusa. Sì, è andato da Nino Ballerino. Sì, ecco, in quel momento tu col tarello di polenta, cosa gli avresti fatto a Salvini? Di la verità. Ma che vuol dire? Scusa, io sono rispettosa delle tradizioni di ogni popolo, a casa loro. Vedi come se la cava. Palermo è rispettoso delle tradizioni di Palermo, non è che vedo Palermo digli a loro cosa fare, vivere col terreno della si mangiano panino con la milza, Vabbè, senti un po', Federico, qua Berlusconi, la svolta animalista, dai, di questa, ma come la vivete lì a Mediaset? Ognuno ha adottato un cricetino, non lo so. Ma non ce li fanno entrare. Ah no? Ma come? Ma fate subito. Ma perché uno dovrebbe portarsi un pastore tedesco al lavoro? Ma dopo tutto sto casino, non ve lo fanno. Cioè, questa è una notizia. Cioè, a Mediaset facciamo il partito. Ci vorrebbe uno zoo aziendale. Ma io lo proporrei per tutte le aziende, no? Zoo aziendale, no? Che bello. Questo. Che poi si litiga tra colleghi, si litiga anche tra cani di colleghi, cioè proprio sul lavoro ci sono tanti cani dappertutto, diciamo. Esatto. No, evidentemente, sai che Berlusconi non fa nulla senza aver prima calcolato, no? È chiaro. Evidentemente il pubblico elettorale che vota anche in base a questo, pensa un po' alle signore un po' più anziane, che sono magari sole, che hanno, diciamo, potrebbero. No, secondo me lui soprattutto va a pescare veramente tra quelli che non si riconoscono e sono sempre più gli italiani in nessun partito, proprio perché non ce la fanno e dicono forse l'unica cosa che mi tiene insieme è l'amore per gli animali, no? È Aurora. Sì, forse. L'unica cosa che ci accomuna, anche perché il quadro è davvero sconsolante. Tra l'altro la cosa curiosa è che nessuno parla delle prossime elezioni amministrative. Cioè, sì, ma come no? Come no? A Cantù c'è Aurora che... Guarda Rosi, è candidato anche il Nicola Molteni a consigliere comunale. No! Certo. Ma come è candidato? Cioè il marito di Aurora Lussana, che è onorevole candidato a consigliere comunale, ha già paura di perdere la cadrega a Roma. Ma si fa gratis il consigliere comunale a Cantù, ma perché lui è canturide. Deve fare per il suo comune anche il consigliere. Ma si fa gratis quello, Milan. Ho capito, ma poi lo sai che... Ma ce l'hai il tempo per farlo. Esatto. Certo, trascura la moglie, fa tutto il resto. Ah, pensavo trascura il Parlamento. Cioè, no, in maniera l'ammissione così. Trascura la moglie, attenzione. Attenzione, accuse pesantissime in diretta da parte di Aurora Lussana. Bisogna sacrificarsi per il bene del Lombardo Veneto. L'importante è che non trascuri Benedetta. No. Anche perché, scusa, sono le donne che mandano avanti le case, le famiglie. Oggi sono qua che devo arieggiare il prato, che è una tecnica. Perché mi si è ingiallita l'erba dell'erba. Urca, ragazzi. Lo devo arieggiarlo. L'erba del vicino è sempre più verde. Allora, io vorrei farvi ascoltare, però, se avete le palette da 0 a 10. Da 0 a 10, siete pronti? Un mitico Antonio Razzi che è stato beccato dal nostro grandissimo Cetnikovic a Radio Rock a cantare. Cosa poteva cantare? Gangnam Style, quella coreana, eh. Senti un po', Federico, senti Aurora. Oh, Gangnam Style, sexy lady. Oh, oh, oh, oh, oh, Gangnam Style. Oh, ma che è un cavallo? Oh, sexy lady. Oh, oh, oh. Soprattutto al ritmo, Gangnam Style. A tempo. Allora, senatore, a chi la dedichiamo questa Gangnam Style? Alle due Coree. Anche se la canzone viene dalla Corea del Sud, la dedichiamo alla Corea del Nord, sperando che il maresciallo Kim Jong-un non spara più e che ritorna la pace tra le due Coree. Naturalmente con l'appoggio del grande presidente degli Stati Uniti, Trump, Mr. Ronald Trump. Signori, signori, questo ci attende alle prossime elezioni, sappiatelo. Il signor, uno che chiama il presidente dell'America Ronald Trump. Ronald Trump ha fatto praticamente un miscuglio tra Reagan e Trump. Sì, sì, sì. Non so, vi chiedo il voto, ma voglio dire... Questa, secondo me se in Corea ascoltano questa cosa scoppia una guerra il giorno dopo. Non lo so, che voto gli diamo? Beh, sul, non so, cioè, non, dire che abbia cantato è un po', sì, sì, un po' esagerato, ecco. Sì, non, però non credo che raggiunga la sufficienza, no, per me non la raggiunge, no, no, stavolta no, non la raggiunge. Non la raggiunge, non la raggiunge. No, adesso ho capito perché la gente va a idolatrare le bestie, gli animali e voterà il partito delle bestiole invece. Ah, tu dici piuttosto che razzi, eh? Di fronte a queste dichiarazioni. Ma infatti almeno, cioè, vabbè, vorrò capire almeno se gente come razzi, no, no, no, invece ce la ritroveremo in Parlamento. Sì, comunque, perché se li metti nel listino del proporzionale, eccola là. È comunque, parte alta. Comunque, entra. Io nel ringraziarvi, Federico Novella al TG4, Aurora Lussana, ti segnalo questa pagina della verità: cellulite, il chiodo fisso delle donne, il 90% delle donne si trova a affrontare l'effetto buccia d'arancia e gli uomini fingono di non vedere. Si giocherà su questo quest'estate. Tu sarai al 10% di quelli che no. Senti Federico, il buon Mario Adinolfi ha fatto un pronostico, ha detto vinciamo. Ma io segnalo invece l'altra roba oggi sui giornali. Che cosa? I maschi hanno bisogno di recare il francobollo per poi essere operativi. Sì, ti leggo quello. L'hai va letto? Bene, l'ho letto. Ecco, il francobollo. C'è il francobollo, il francobollo che vi aiuta. Però volevo, per chiudere, Adinolfi ha detto vinciamo largo e facile. Il tuo pronostico, Federico? Che risultato ha previsto? Largo e facile. Non so, ha detto 3-1, 4-1. No, secondo me vinciamo, ma vinciamo sul finale, col cuore. Beh, vabbè, ci teniamo pure questa, eh. Dai, bella, vinciamo, tagliata. Ma gli ultimi minuti. Grande pronostico di Federico Novella. Il triplete è. Dai, alla prossima. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Signori, siamo qui alle 7:19 minuti, è il momento della rassegna stampa di 24 mattino. Ricordo che siamo anche in diretta sulla pagina Facebook della radio, sul sito di Radio 24, radio24.it, con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, tra poco anche Elisabetta Fusconi in redazione. Insomma, eccoci qua, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a martedì 30 maggio, anche maggio lentamente volge al termine. Forza, che state facendo nelle vostre giornate? Siete già attivi o siete, come dico spesso, ad allungarvi nelle vostre eterne colazioni? Allora, signori, i titoli. Il Sole 24 Ore apre su banche e politica pesano sui mercati. Piazza Affari che perde il 2%, unica in Europa. Qualcuno fa notare, forse perché si è detto che si va a votare. E lo spread BTP Bund balza quota 188 con tensione sui tassi. Anche il Corriere della Sera è più esplicito. Rischio voto, giù la borsa. E così anche il Messaggero. Intesa 3, ma la borsa cede. Repubblica, PD Alfano e rottura sulla legge elettorale, manovra a rischio. Per La Stampa, legge elettorale, esclusi i piccoli partiti. Il Fatto Quotidiano, la legge è tedesca, però i vitalizi restano all'italiana. Avvenire, c'è aria di elezioni. Ah, io che non volevo più parlare di legge elettorale. Ma questo è. Per Il Manifesto, legge truffa, ma in questo caso non si parla di legge elettorale. Susanna Camusso della CGIL si scaglia contro i voucher che vogliono essere, verranno reintrodotti molto probabilmente, creando tra l'altro una tensione nel governo. Per Il Giornale, Fini rischia la galera, Alfano rischia l'estinzione. E anche La Verità mette la vicenda Fini, l'esplosiva ordinanza del GIP, Fini ha messo il Parlamento al servizio di un criminale. Allora, la cronaca, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, ha parlato l'ordine dei medici della zona dove c'è il medico omeopata per la vicenda del bambino morto in conseguenza di un'otite mal curata. Ebbene, la vicenda rimane ben presente sui giornali. La cronaca racconta di una drammatica telefonata, come scrive Fabrizio Caccia, pagina 16 del Corriere della Sera, con il bimbo non usate farmaci, la lite al telefono tra l'omeopata e il 118, quindi i soccorsi che sono stati chiamati a un certo punto. Pronto, mi sente? Allora voi dovete fare una semplice terapia domiciliare al bimbo, d'accordo? Al telefono c'è l'omeopata Massimiliano Mecozzi, sta parlando con Mirko Volpi, medico del pronto soccorso dell'ospedale di Cagli. Ma non se ne parla nemmeno, risponde il dottor Volpi. Il bambino è in codice rosso, c'è una grave situazione neurologica in corso, ora lo portiamo in ospedale. Questo è il senso della drammatica telefonata all'una di notte del 24 maggio scorso, quando ormai il bimbo Francesco, 7 anni, sta per entrare in coma per via della sua otite mal curata e i suoi genitori finalmente hanno deciso di chiamare l'ambulanza. Quei 25 minuti di pura disperazione dopo che in casa del piccolo arrivano i soccorsi del 118 sono raccontati nero su bianco in un verbale di sommarie informazioni. La testimonianza è stata fornita dal medico Volpi, intervenuto quella notte per capire lo stato di totale dipendenza e la fiducia cieca provata dalla mamma di Francesco nei confronti dell'omeopata Mecozzi, ora indagato per concorso in omicidio colposo, basta seguire il filo del racconto fatto ai carabinieri da questo dottore. «Faccia come crede», dice l'omeopata al medico Volpi, dopo che questi gli ha detto senza indugio che il bambino va portato di corsa in ospedale. Il cellulare allora ripassa nelle mani della madre di Francesco. È a lei che Mecozzi si raccomanda di non far somministrare al piccolo né antibiotici né tachipirina. E la mamma lo dice al medico Volpi, non gli dia la tachipirina. Lui allora, per evitare litigi in ambulanza, attenua la dose del farmaco, ma comunque dice, signora, la tachipirina la diamo anche ai neonati. Ormai però è troppo tardi. Nel giro di 3 giorni, pur portato all'ospedale, il piccolo Francesco muore per encefalite, così ha dichiarato l'autopsia, cioè un pus virulento attaccato al suo cervello, facendo cessare le funzioni. E anche qui il titolo sotto racconta un po' la storia. Mai visti i titoli del dottor Mecozzi, dicono dall'ordine, ma da lui code di 4 mesi con famiglie che portano i bambini e devono attendere 4 mesi per essere ricevuti. Signori, meditate molto. Cari ascoltatori, meditare molto. 4 mesi di attese. Non saranno tutti matti, no. No. Io sono sicuro che sono persone intelligentissime, anzi molto colte, coloro che portano i bambini da questo medico, probabilmente dicendo che i medici veri non capiscono nulla. Questo è meditare molto. In tutto questo, un tema affine perché riguarda la salute pubblica, le polemiche, c'è un'intervista a Valeria Fedeli, ministro dell'istruzione. Dobbiamo spiegare alle famiglie perché ora i vaccini sono 12. Intervistata da Claudia Voltattorni, racconta al Corriere della Sera, pagina 17, questa vicenda dei vaccini che ora saranno obbligatori. Coinvolgere, motivare, spiegare. Queste sono le tre regole per Valeria Fedeli. Senza fare allarmismo, ma senza lasciare spazio alle fake news. Allora, intanto chiariamo, ministro, chi è senza certificato? Anzi, ministra, perché bisogna chiamarla ministra, vabbè, insomma, sul Corriere quindi si adeguano ministra. Io giornalista e lei ministra. Vabbè, ministra, chi è senza certificato resta a casa? Nella scuola dell'obbligo da 6 a 16 anni nessuno resta a casa, chiarisce il ministro Fedeli. Su questo punto non c'è alcun dubbio. Con questo decreto noi stiamo salvaguardando la comunità dei minori. E non puoi non guardare con i loro occhi, non puoi lasciarli a casa, non puoi far scattare un obbligo mettendoli fuori dalla scuola. In mancanza di certificati, i dirigenti scolastici dovranno segnalare il caso alla ASL, che se ne dovrà occupare. Se i genitori rifiutano di vaccinare i figli, la segnalazione andrà fatta al Tribunale dei Minori, ma i bambini dovranno andare a scuola. Parliamo di scuola dell'obbligo. La tutela della salute deve trovare un equilibrio con la tutela all'istruzione. La vera discussione col ministro Lorenzin non è stata sull'obbligo, ma sulle sanzioni, sul fatto che non debbano pagare i bambini. L'obiettivo resta aumentare le corti di copertura vaccinale dopo che è stato appurato che la percentuale negli anni è andata diminuendo. Ma la scuola dell'obbligo va garantita. Nella fascia 0-6 anni, quella più a rischio, non si entra a scuola proprio per tutelare tutta la comunità dei bambini, ma dalla prima elementare i bambini dovranno essere comunque accettati a scuola. Questo è un punto allora che chiarisce Valeria Fedeli in questa intervista al Corriere della Sera. Rimango sul Corriere della Sera perché c'è un'altra intervista che fa capire che le cose non vanno benissimo in Italia, se anche Flavio Insinna, sì lui, quello degli insulti fuori onda, dice forse mi candido in politica. Per la verità, in questa intervista a Tommaso Labate, la prima intervista che rilascia dopo tutta la polemica, il fuori onda di Striscia la Notizia, mandato con gli insulti agli autori, gli insulti anche ai concorrenti, Flavio Insinna dice: troppo odio, adesso ho paura, potrei lasciare la TV per fare politica. In realtà nel cuore dell'intervista parla di questa vicenda. Iniziamo da Striscia: ho una persona potentissima contro di me, che sono invece solo. E perché? Questa persona è Antonio Ricci, ovviamente. Perché pensa ce l'abbia con lei? Perché ho avuto l'ardire di condurre un programma che andava nel suo stesso orario e andava anche bene. E poi perché sono l'unico, insieme a Bonolis e Fabrizio Del Noce, ad avergli risposto per le rime. Dopo il mio discorso a Carta Bianca, in cui parlavo del vivere in un paese gentile, è cambiato qualcosa. Mi sono reso conto dal giorno dopo, il video è diventato virale, ho ricevuto chiamate da chiunque, evidentemente questa cosa ha dato fastidio a qualcuno. E all'indomani di quel mio intervento avrei potuto candidarmi con chiunque. Ma perché ha pensato di entrare in politica? In quei giorni no. Ma ora, con la campagna di odio che sto subendo, le rispondo che potrei pensarci. Lo sa dove stavo mentre mi stavano preparando quel bel piattino a Marghera, in un poliambulatorio di emergency che cura non solo gli immigrati ma anche gli italiani che non possono permettersi il medico? Ero stato nella sezione femminile del carcere di Rebibbia con Sant'Egidio. Non ho problemi a chiudere per sempre con la TV. Poi si viene al discorso. Beh, ma si è riascoltato mentre diceva nana di merda alla concorrente? Lei pensa che non mi vergogni? Mi vergogno ogni minuto di quelle parole. Faccio una lotta quotidiana contro me stesso per essere migliore. Se parlassi sempre sarei Kennedy, e non lo sono. Ma non discuto su una cosa, non sarò un buono, ma sono una persona per bene. Alla mia talentuosa squadra di affari tuoi chiedevo sempre il massimo. Certe volte l'ho chiesto male, un po' come Mourinho. Me ne scuso e mi vergogno. Ma mi sarei vergognato di più se fossero usciti audio del tipo «abbiamo lavorato male, ma sti cazzi, andamosene a cena». No, ma Insinna si difende così. E poi ad Antonio Ricci gli direi parliamoci, e gli chiederei: ma che t'ho fatto? Perché tutto questo odio? Flavio Insinna, signori, intervistato da Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, e ho tenuto da parte l'apertura del Giorno. Ora, io non lo so chi può avere partorito una legge del genere, che dà il via e apre le porte a una possibilità di questa storia che il Giorno racconta, a mio modo di vedere, giustamente a pagina 2-3 con ampio risalto, dunque titolo di prima pagina. Io non lo so chi ha partorito questa legge, sicuramente chi l'ha fatta, ci sarà qualche magistrato che dirà è giusto, qualcuno che dirà è una legge giusta, perché non bisogna solo colpire chi sbaglia, bisogna anche rieducare, bisogna dare una seconda possibilità, ed è giusto, sono d'accordo anch'io. La storia è questa. Condannato a 10 anni di carcere nel 1997 per associazione mafiosa, quindi un reato mica da poco, fa il latitante ai Caraibi. E vabbè, e questo purtroppo accade. Fa il latitante per 20 anni, dunque il doppio degli anni ai quali era stato condannato, e questo, prevede la legge, gli dà la prescrizione. Cioè, se passa un tempo da latitante pari al doppio della pena ottenuta, la condanna è estinta. La persona può tornare in Italia. E così ha fatto questo signore a Pisa. Latitante ai Caraibi per 20 anni, era stato condannato a 10, il mafioso è libero. È rientrato, come racconta Federico Cortesi sul Giorno a pagina 2, in Italia, tranquillamente, è a posto con la legge, ha trascorso il doppio del tempo della condanna, ma ai Caraibi. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il vai a dalla brasa tamadoz, lavorati che mi non posso, dell'informazione. Va bene, allora vedete, mi scrive Giorgio, giudice al Tribunale di Padova, che dice: è così, lo so, fa arrabbiare, anzi fa un po' incazzare, dice lui, ma non è né più né meno che la fredda applicazione della legge. E cioè c'è questa vicenda per cui un condannato per mafia a 10 anni ha trascorso da latitante ai Caraibi 20 anni, quindi il doppio degli anni a cui è stato condannato, e questo estingue la pena. Quindi è come mi ha anche scritto in audio, ha mandato un audio al 349-238-6666 WhatsApp, un ascoltatore dice: ma come, quindi faccio un reato, che ne so, non pago le tasse, vengo condannato a 1 anno, 2 anni, e devo passare, non so, 2, 4... Certo, mi devo organizzare, magari a Santo Domingo, non devo lasciare tutti gli affetti, tutte le cose care. 4 anni là, track, ripulito, torno in Italia. E ora è la legge. Questo è raccontato dal Giorno in prima pagina. Vediamo a proposito di legge, un'altra legge che ci ha sfrangiato molto, ma che oggi ancora è affrontata con lunga dovizia di particolari sui giornali, cioè la legge elettorale. È così, il mio appello, come sempre, è caduto nel vuoto inutile, cioè ai direttori di giornali di non occuparsi di legge elettorale, di dire 3 righe sulla legge elettorale, e invece ovviamente lo fanno apposta per andarmi contro. Manie di grandezza. 10 pagine sui giornali sulla legge elettorale, simile al sistema tedesco, ma non quella del sistema tedesco, ma diversa. Che poi la versione italiana nessuno ancora la conosce, però se ne parla tantissimo sui giornali. Comunque, al momento c'è l'intesa tra le 3 grandi forze politiche più importanti, PD, Movimento 5 Stelle, le 2 date dai sondaggi in testa, e anche poi Berlusconi, che ha lanciato questa idea. L'accordone, così lo chiama Dino Martirano a pagina 2 del Corriere della Sera, l'accordone PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega sulla legge elettorale alla tedesca. Già la chiamano alla tedesca, cioè come una cosa posticcia. Con sbarramento al 5%. Arriva oggi alla prova della direzione del PD convocata da Renzi. Se non ci saranno intoppi, già domani sera i quattro partiti favorevoli al modello proporzionale inizieranno a mostrare i muscoli in commissione. I testi restano ancora chiusi nei cassetti. Ma in serata a Montecitorio circolava la notizia di un colloquio al telefono tra Renzi e Berlusconi, anche per confermare due dettagli della legge che non sono secondari. Il triplo paracadute previsto nei listini proporzionali per i candidati illustri, la cancellazione della norma Salva Alfano, che in Germania prevede una rappresentanza per i partiti sotto il 5%. E su questo, la soglia del 5%, c'è una grande novità. Il 5%. Attenzione, perché c'è un giallo. Silvio Berlusconi, dopo aver lanciato l'idea del proporzionale con sbarramento al 5%, ora, racconta Francesco Verderami, avrebbe cambiato idea. Non gli conviene più il 5%, gli conviene più il 3%. Non è tanto per fare un favore ad Alfano, anche se sono reiniziati i contatti tra Berlusconi e Alfano, ma così. Non è filantropia, racconta Verderami. Se Berlusconi ha perorato con Renzi la causa di Alfano, se attraverso Gianni Letta sta tentando di modificare un punto del patto sulla legge elettorale, proponendo di abbassare al 3% la soglia di sbarramento. Il fatto che il Cavaliere ha interesse a correggere quella norma, perché così com'è non gli conviene, anzi finisce per danneggiarlo, offrendo in prospettiva un surplus di seggi a Democratici e Grillini. Cioè, capite? Non è che viene fatto tutto in nome di una governabilità. Ognuno punta con i sondaggi a capire cosa conviene di più alla propria coalizione politica. Pensare di fare una legge che chiunque sia il più bravo governi, no, questo per carità, non scherziamo. In tutto questo parla Enrico Letta, intervistato da Monica Guerzoni, il premier prima di Matteo Renzi e di Gentiloni. Votare subito sarebbe un errore, così esordisce Enrico Letta a pagina 2 del Corriere della Sera. Per interrompere una legislatura serve una spiegazione. Non si può dare l'idea che si cerca una rivincita del 4 dicembre. Trovo questa dinamica bizzarra. E poi parla anche di Renzi. Leggerà il suo libro con la vera storia della staffetta al governo con lei? Se è interessante, chi sì, ma chi fa politica deve guardare avanti. E poi sul voterà il PD mi auguro di vedere i programmi e poi farò le mie scelte. Certo, si rischia che torni Berlusconi come Sylvester Stallone in Rocky, così Enrico Letta. In tutto questo però Gentiloni che fa? Gentiloni punta a capire che succederà dell'Italia. È interessante allora Goffredo De Marchis a pagina 3 di Repubblica, il piano per le elezioni in autunno passa da un decreto sull'IVA, perché collegata alla legge elettorale il governo Gentiloni pensa a un decreto sull'IVA, pagina 3 di Repubblica. È l'unica soluzione per evitare che l'eventuale esercizio provvisorio figlio di un Parlamento frammentato e senza maggioranza conduca dritti all'applicazione delle clausole di salvaguardia che sono già legge dello Stato. Scattano il 1 gennaio, porteranno l'IVA dal 10 al 13% per i beni di largo consumo e dal 22 al 25% per tutti gli altri beni, costo 19,6 miliardi. Il decreto sarebbe chiamato a evitare che l'IVA aumenti automaticamente. E cosa si farebbe? Beh, si rinvierebbe di 3 mesi al 1 aprile le clausole in attesa che alle Camere si formi una maggioranza stabile e si trovi una possibile alternativa. Questo almeno è quello che scrive Goffredo De Marchis. In tutto la rabbia di Angelino Alfano è espressa nel colloquio con Renzi, che non abbassa la soglia al 5%, dice no, lo sbarramento rimane al 5%, e dunque Alfano si sente fuori, visto che i sondaggi non lo danno neanche al 3%, e lui esce, come racconta Amedeo La Mattina sulla Stampa, pagina 3, esce da questo colloquio con Renzi e dice Renzi è un serial killer. Questo lo dice almeno ai suoi. Si illude di governare con Berlusconi, ma non ce la farà. Renzi è un serial killer. Il titolo della Stampa. A proposito di serial... Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Capisco che sei turbato dalla, come dire, calda, calorosa accoglienza del tuo appello. Non scriviamo più di legge elettorale. Sì, devo subito dire che i direttori si sono allineati tutti al mio diktat. Una forza di convincimento da parte tua è encomiabile. Un vero influencer. Senti, non so bene cosa voglia dire, ma ti dico di sì, tanto per farti contento. Invece. Uno che conta. Ah, ecco, uno che conta. Allora ti vorrei dire invece sul Sole 24 Ore, così un po' in ordine sparso, qua e là fior da fiore. È quasi estate, torna lo spread. Ah, ci mancava? È rifiorito, sì. Torna lo spread, nel senso che cattivo andamento dei listini ieri e poi insomma questo spread, cioè la differenza tra BTP e il Bund tedesco, insomma è risalito, sta risalendo, speriamo, perché sai che col caldo lo spread, non so perché, ma sembra voler lievitare. Vabbè, tutti i particolari naturalmente è una cosa molto seria nelle pagine 2 e 3 di oggi sul Sole 24 Ore, ma poi ti segnalo anche importante qui Radio Fisco, ma non solo, la proroga per le dichiarazioni IVA che è arrivata al 12 di giugno. I professionisti però non sono particolarmente contenti, anzi sono abbastanza incazzati, come diresti tu, perché dicono che sono pochissimi giorni rispetto a maggio che la proroga arriva, così direi in articulo mortis o in extremis, come si potrebbe dire, e poi ci sono altre pinzillacchere ancora che non vengono risolte. Ma trovi tutto naturalmente su Norme e Tributi che tu leggerai. Minuziosamente potrebbe quasi andare. Ma religiosamente è meglio. Articolo da meditazione a pagina 5, la cyber security e le piccole imprese. Sai che insomma questi attacchi anche internazionali alla sicurezza nazionale, ma anche delle singole aziende, dei singoli, insomma fanno un po' preoccupare. Allora, quanto si investe una piccola impresa per mettere in sicurezza i dati? È pochino, e questo è preoccupante, ma trovi tutto naturalmente nel resoconto che ti fanno Andrea Biondi e Matteo Meneghello in pagina 5. Ricordati che domani ci sarà un focus con il Sole 24 Ore dedicato a IMU e TASI. Te lo sei segnato? Sì. E poi me lo vieni a cercare al bar come al solito. No. Ecco, allora ricordatene, naturalmente non ti parlo della manovrina perché mi pare che oramai sei più appassionato alla legge elettorale o ti interessa la manovrina. Ma leggi anche della manovrina. Ma leggo della manovrina. Ci sono delle cosucce interessanti, ad esempio che questa sarebbe una buona notizia, per i fondi pensione non c'è il bail-in, cioè se succedesse qualcosina non è che poi siamo costretti a rimpinguare dalle nostre tasche, questo è più o meno tradotto malamente in italiano. Naturalmente oggi è martedì, condominio. E come tutti i martedì c'è il condominio. Ti invito a meditare sulle spese, l'attribuzione delle spese per il giardino condominiale, ma anche a una breve rassegna di Cassazione sul fatto di quando bagni le piante che bagni il balcone di quello di sotto. Ah, mi capita. Questo è un problemuccio. Allora, c'è il reato? Perché, no, vabbè, c'è il reato, ma solo se il comportamento è proprio reiterato e crea un danno molto grande. Questo più o meno quello che possiamo dare come consiglio, tutto il resto lo apprenderai leggendo il Sole 24 Ore. Traffico! Hey, Alessandro Milan è un po' il Macron dell'informazione. Va bene, le Macron. Va bene. Cari ascoltatori, siamo qui. Vado e salto sul Manifesto perché c'è un'intervista a proposito di manovrina a Susanna Camusso, del leader della CGIL, che prende nettamente le distanze dal tentativo di reintrodurre i voucher. Ricordate che la CGIL aveva raccolto le firme per fare un referendum che poi non si è tenuto perché il governo ha abolito i voucher, che ora però vogliono essere reintrodotti parzialmente nella manovrina. Intervistata da Antonio Sciotto a pagina 4 del Manifesto, dice Susanna Camusso: il blitz sui voucher è una minaccia alla democrazia, andremo fino in fondo, la CGIL si appella al Presidente della Repubblica, scenderemo in piazza, ricorreremo alla Corte Costituzionale, non era mai accaduto nulla di simile nella storia della Repubblica. Approvare una legge per evitare un referendum e poi riproporla il giorno prima della data in cui si sarebbe dovuto votare. così segretario della CGIL Camusso è concentrata sulla scrivania del suo ufficio, riceve sms senza sosta sul telefonino e dice: ritengo che quando si indeboliscono le regole, la certezza delle istituzioni, si è sempre di fronte a una minaccia della democrazia. Non si tratta di una minaccia agita con le armi, ma è in atto un logoramento, uno svuotamento. Quando il governo aveva varato il decreto di abrogazione dei voucher, aveva precisato che non sarebbe stato scontato introdurre un nuovo strumento per le imprese e che se comunque lo avesse fatto avrebbe prima sentito le parti sociali. Invece, nel fine settimana appena trascorso, abbiamo assistito a 48 ore surreali con un emendamento senza padri. Non si capiva se fosse da intestare all'esecutivo o al PD in un ping pong che a tutti è sembrato quello tipico di chi gioca di soppiatto. E quindi Susanna Camusso dice: è assolutamente inaccettabile la reintroduzione dei voucher. Gianfranco Fini invece, molti giornali aprono sulle sue vicissitudini giudiziarie, soprattutto lo fanno Libero, Il Giornale e La Verità, i tre giornali diciamo di centrodestra come orientamento. Soprattutto ecco qua La Verità, il titolo: Fini ha messo il Parlamento al servizio di un criminale. Il magistrato fa sequestrare all'ex presidente della Camera due polizze vita per 1 milione di euro e lo bolla con parole durissime. Ha favorito Corallo sottraendo allo Stato 63 milioni. E poi della casa di Monte Carlo, scrive La Verità, ovviamente sapeva tutto, tanto che Maurizio Belpietro, direttore della Verità, esordisce nel suo editoriale così: è ufficiale, Gianfranco Fini è un coglione. Era stato lui a definirsi tale in un'intervista al Fatto, addossando ogni responsabilità dei traffici con Francesco Corallo alla madre delle sue figlie. Sto vivendo un dramma familiare, aveva assicurato mesi fa al collega Marco Lillo, spiegando di non aver mai saputo nulla dei milioni che arrivavano dai Caraibi direttamente sui conti della compagna e del fratello. Ma oggi si scopre che non soltanto l'ex presidente della Camera era a conoscenza di tutto, dunque anche dei soldi, ma ha pensato che le operazioni finanziarie internazionali di Elisabetta e Giancarlo Tugliani fossero sufficientemente sofisticate da impedire di risalire a lui. Il GIP, che ha disposto a suo carico un sequestro di due polizze vita per un ammontare da 1 milione di euro, dopo un sequestro di altri 5 ai Tuglianos, tutto quel giro di conti e società offshore serviti poi per comprarsi casa alla periferia di Roma, lo definisce piccola delinquenza finanziaria, routinerie. Insomma, roba infima, insomma, roba da ladri e non certo in guanti bianchi. Durissimo l'editoriale di Maurizio Belpietro. Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera: il GIP, così Fini garantiva Corallo e gli sequestrano 1 milione di euro. Poca voglia di parlare, lo raggiunge il Corriere della Sera con Virginia Piccolillo: la ringrazio, non rilascio interviste, però la prego di leggere la nota dei miei legali, la legga con attenzione. Ah, ecco, i legali scrivono che sono state sequestrate polizze intestate alle sue figlie sulla base dell'incapienza del patrimonio che doveva essere oggetto di sequestro nei confronti di Tugliani. Ecco appunto, se la motivazione del provvedimento è l'incapienza dei Tugliani, lei capisce? Cioè, vuol dire che con quel giro di denaro considerare i Tugliani incapienti fa sorridere? Lei ride, ma io non ci trovo nulla da ridere, oltre al danno, anche la beffa. Così Gianfranco Fini, poche dichiarazioni. Così piove sul bagnato è anche la dichiarazione fatta agli amici, secondo Alessandra Longo di Repubblica. Va bene, la vicenda Fini certo continuerà nei prossimi giorni. Vi segnalo sul Fatto Quotidiano una storia raccontata da Valeria Pacelli: chiude la scuola di polizia, è costata solo 20 milioni di euro. A Foresta Burgos, in provincia di Sassari, in 5 anni ha organizzato poco più di 10 corsi. Questa è la storia di un fallimento, racconta il Fatto. Potrebbe non esistere più dal 1 gennaio 2018, mancano i partecipanti, 20 milioni di spese, forse chiuderà. Beh, insomma, una bella vicenda di possibile spreco, questo almeno raccontano i giornali. Segnalo anche una pagina della Verità di Simonetta Sciandivasci. Signore, il 90% della popolazione femminile adulta si trova a affrontare l'effetto buccia d'arancia. C'è il problema cellulite, che non è una malattia, ma un problema estetico. Il chiodo fisso delle donne, la cellulite. Una pagina dedicata a questa. Ma soprattutto la carta costa è una pagina dedicata dal giorno alla paura dell'eroe. Ma cosa vuol dire la paura? Ah, perché Totti cosa farà? Cosa farà Francesco Totti? L'arte di reinventarsi la vita da Napoleone a Greta Garbo a Francesco Totti. Ma chi se ne frega!